Estate di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Real Madrid e Milan, una bellissima partita, tante emozioni, 6 gol, 4 del Milan con la doppietta di Esharawi, uno dei migliori sicuramente di Pippo Inzaghi, in questo caso il giovanissimo allievo che fa 4 gol a Carlo Ancelotti, l'uomo che lo ha lanciato in tutti i sensi, soprattutto adesso, a cui si ispira l'allenatore Pippo Inzaghi. I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto una grande partita, è solo un'amichevole, non bisogna montarsi la testa, però penso che i tifosi del Milan e il nostro presidente saranno contenti che anche con Real Madrid siamo scesi in campo col piglio giusto. Questa è la più bella situazione, chi gioca di più, chi gioca di meno, questa è la cosa più bella, che se prendiamo questa bella partita con il piglio giusto può essere una grossa iniezione di fiducia, perché come dicevo prima, dopo Napoli, Roma e Real Madrid comunque ne abbiamo vinte 2, pareggiata 1, stiamo dando continuità alle nostre prestazioni e dovremo essere bravi col Sassuolo il 6 gennaio, lì è la nostra partita più importante ora, però questi giocatori ora mi lasciano molto sereno. Ho fatto 2 gol, sono molto contento, però bisogna dare continuità sicuramente alle prestazioni e ai gol, perché basta una partita per ritrovarsi di nuovo giù, per cui bisogna avere continuità. I 3 punti alla fine sono quelli contro il Sassuolo, quindi dobbiamo cercare di far bene lì. Sicuramente fare 2 gol a Real Madrid non capita tutti i giorni, anche se è un'amichevole, è stata sicuramente una grandissima soddisfazione per me, quindi sono molto contento. Notti come questa aumentano la voglia di restare al Milan? Sì, sicuramente, io l'ho già detto, resto qui al Milan, cerco di fare bene nelle prossime partite e di raggiungere il terzo posto. 800 24 00 24, Daniele Buonamici in redazione, Filippo Aureggi in regia. Non conta nulla, perché nel calcio la proprietà transitiva non esiste. E quindi il Milan, che ha battuto il Real Madrid, non è diventato improvvisamente la squadra più forte del mondo. Però questa specie di sogno di mezzo inverno, con un'italiana capace di rifilare 4 gol ai campioni di tutto, beh, ci ha regalato ieri sera qualche brivido a noi depressi da anni, abituati a figuracce anche nelle amichevoli, abituati a essere quelli che i 4 gol li prendevamo sempre noi. 800 24 00 24, stiamo insieme oggi fino alle 15, di questo ultimo giorno dell'anno, quindi se volete chiamare siamo qui per parlare della vittoria del Milan. Abbiamo sentito i riflessi 4-2 sul Real Madrid nella lontana Dubai, per parlare dell'Inter che invece ha perso contro il Paris Saint-Germain 1-0. Nulla di nuovo sotto il cielo, considerando come ci eravamo lasciati una decina di giorni fa. Poi arriva anche Pierluigi Pardo. Sentiamo Mancini dopo la sconfitta a Marrakech contro il Paris Saint-Germain. Noi abbiamo fatto comunque un giorno di allenamento e sicuramente loro hanno fatto almeno 3 o 4, quindi, però nel complesso il primo tempo abbiamo fatto le cose buone, questo, insomma, una partita così si raccolgono le cose buone, qualche esperimento, qualche giocatore in qualche posizione magari nuova, per vedere come risponde, poi insomma anche aver recuperato un paio di giocatori tipo Hernanes. Questo è importante. Adesso ancora una sgambata qua e poi dal 1° gennaio li riavrai tutti a disposizione per iniziare realmente a preparare Juventus Inter. Sì, beh, questo è importante, riaverli tutti dopo domani, però insomma questa partita è stata anche un buon test. E questo era Mancini. 800 24 00 24 di un ultimo giorno del 2014 che va agli archivi senza grandissime notizie. erano due amichevoli, quelle di ieri di Inter e Milan, potevano dare i segnali che hanno dato, e cioè che il Milan in questo momento sta meglio e quindi è una squadra più avanti, ha un progetto tecnico e a gennaio sarà pronta a ripartire. L'Inter è un passo indietro, lo è in campo, lo è certamente anche sul mercato. Tra le belle notizie di questo fine 2014 ci mettiamo anche questa, che riguarda Pepito Rossi. E ha impostato la terza fase della riabilitazione, quella sul campo, inizierà la 20ª settimana, cioè a, come previsto, a metà gennaio, iniziando il lavoro specifico sul campo, con una previsione di un controllo probabilmente senza una successiva visita, ma solo seguendo l'andamento a metà febbraio, impostando il recupero agonistico proprio per l'inizio di marzo. Queste sono le previsioni, l'impostazione sta procedendo tutto bene, quindi crediamo che potrà essere il vero Rossi già per l'inizio di marzo aggregabile alla squadra. E quindi Pepito Rossi torna a marzo. Ciao Pier. Ciao. Questa ciao, è la bella notizia con cui chiudiamo questo 2014. Sì, anche se poi insomma su Pepito, proprio per rispetto delle aspirazioni, delle speranze, delle paure, bisogna secondo me aspettare, nel senso che la quantità di infortuni che ha avuto questo ragazzo è talmente grande, è talmente enorme che io penso che insomma, lo potremmo dichiarare fuori pericolo soltanto dopo 6 mesi di attività agonistica senza infortuni e senza ricadute. Lo dico ovviamente con affetto, ma proprio perché ormai è impossibile illudersi, la quantità di problemi che ha avuto è stata veramente eccezionale, la sfortuna che ha avuto questo ragazzo incredibile, ci siamo tutti per lui, però insomma queste sono belle parole, molto rassicuranti, positive, perché poi insomma si pensava, qualcuno pessimisticamente pensava che fosse finita qui, insomma invece noi vogliamo essere ottimisti, però ripeto, la verifica arriverà dal campo e soltanto un arco di tempo sufficientemente lungo se ne potrà dare garanzie. Ottimisti con prudenza, discorso che vale anche per il Milan, e lo allargo ad Antonio Di Gennaro che ci ha raggiunto. Ciao Antonio, grazie, ieri spalla tecnica del commento di Milan Real Madrid. Ottimisti. Buongiorno. Ciao, ottimisti. Buongiorno. Con quel pizzico di attenzione, perché era un amichevole, perché il Real Madrid ci ha messo molto di suo, però lo dicevamo prima, eravamo noi quelli abituati a fare la figuraccia anche in amichevole. Che il 30 dicembre i 4 gol li abbia presi il Real Madrid rimane comunque una notizia. Se ne poteva prendere anche qualcuno in più, questo aumenta insomma una gara che sì, il Real Madrid l'ha affrontata in maniera non giusta, però il Milan mi è sembrato, diciamo, con l'atteggiamento giusto e con la testa giusta nel miglioramento che sta facendo in quest'ultimo periodo, soprattutto la fase difensiva, e poi deve anche ovviamente cercare di migliorare quella offensiva con l'arrivo anche di Cerci. Mi sembra che sia una, per come gioca Inzaghi, per lo schieramento e per il modulo e per come vuole interpretare la partita Inzaghi e la sua squadra, mi sembra che sia un acquisto importante per il futuro. Sì, Pier, hai visto qualcosa del Saluta Milan? Ciao dice, ciao Pier. Appena WhatsAppati gli auguri. Ma sì, l'ho visto, l'ho intravisto, insomma, diciamo, è incoraggiante, anche se poi secondo me il risultato è quasi un dettaglio, cioè secondo me la notizia più incoraggiante è quella di El Shaarawy, che comunque si è mosso nuovamente su livelli molto importanti, e poi anche sì, sul mantenimento di una certa brillantezza che il Milan ha avuto nelle ultime due partite, non dimentichiamoci che il Milan non ha incassato gol contro il Napoli e contro la Roma, ha chiuso bene il 2014, quindi insomma diciamo che c'è questa onda lunga, poi insomma, parlare di una vittoria storica, perché il Real Madrid veniva da 22 vittorie consecutive, secondo me non ha nessun significato, anche se per esempio ho visto stamattina, non ricordo se Ass o Marca, probabilmente Ass, che lo metteva proprio nella parte alta della copertina. Sì, continua a essere sulle prime pagine anche dei siti spagnoli, dove comunque ha fatto insomma un certo effetto l'idea del Milan, certo, che rifila 4 gol al Real Madrid. Parlando di El Shaarawy, a essere maliziosi, si potrebbe dire che non c'è niente di meglio di una doppietta al Real alla vigilia del mercato. A me dici? Sì. Beh sì, no, ma ha detto bene Pierre, è incoraggiante per quello che ha fatto vedere, per il movimento, per i gol, per come si sta inserendo, anche l'aspetto fisico è fondamentale. Poi per lui che è stato per tanto tempo, diciamo, a livello di realizzativo non un po' al di sotto, e quindi due gol sono importanti fatti con il Real, ma un po' tutta la squadra, ho visto ancora una volta un Mexes molto molto pronto nel guidare la difesa, insomma stanno incominciando, diciamo così, a trovare i giusti equilibri. Non prendere gol è importante, dà sicurezza, e anche perché ne aveva presi tanti in precedenza. E poi dicevo l'attacco, certo bisognerà vedere, anche valutare l'aspetto Pazzini, perché se non dovesse, insomma, rimanere Pazzini, credo che un attaccante vero d'area di rigore, a parte che giocano sempre col finto 9, mi sembra fondamentale, anche perché la stagione è lunga ancora. Sì, poi Penso Giovanni che il Napoli sia più forte per il terzo posto, mediamente sia più forte, però poi sai, il Milan ha questa forza, il Napoli sta facendo cose eccezionali sul mercato, si sta muovendo con grande tempestività, però insomma anche il Milan è capace di colpi di genio, quindi società con le spalle larghe da questo punto di vista, quindi insomma se rimane in scia secondo me non è una buona notizia per tutte le altre, ovviamente anche per la Lazio, per la Fiorentina, per i genovesi che legittimamente ambiscono al terzo posto. Sì, nel momento forse in cui il Napoli doveva fare il buco, anche considerando le difficoltà degli altri che ripartivano da zero, per primo il Milan di Inzaghi, era in questa fase della stagione. Aver tenuto il Milan attaccato significa che da qui alla fine dell'anno anche il Napoli dovrà fare i conti con il Milan per il terzo posto. Domenica ore 13 a Madrid sarà presentato Fernando Torres, più o meno alla stessa ora Inzaghi conoscerà Cerci, che sarà il valore aggiunto del Milan per la seconda parte del campionato. Noi abbiamo un minuto di traffico, vi chiedo un minuto di pazienza, ci sono anche Piero da Milano e Fabio da Palermo. Traffico. Quale maglia te ne vai stasera del Real Madrid? Con chi l'hai scambiata? Ho scambiato con Cristiano Ronaldo, quindi due gol più la sua maglia, direi che chiude bene la giornata. E cosa ti ha detto? No, niente, ho fatto i complimenti e basta. Convocati. È il mese più bello per voi e per i tifosi, perché magari i tifosi sognano, i giornalisti scrivono, quindi per noi dipende. Sì, sogna anche Mancini, questa è l'impressione. 800 24 00 24. Antonio Di Gennaro, Pierluigi Pardo, avete l'impressione che anche vedendo quel nulla che si è visto ieri in questa amichevole di Marrakesh, l'Inter comunque sia ancora un passo indietro rispetto al Milan, con Mancini che aspetta rinforzi, risposte dalla società? Secondo me sì, è ancora indietro a Napoli, al Milan, credo anche alla Fiorentina, e quindi secondo me dovrà fare una campagna acquisti anche importante. Anche la Lazio. Anche la Lazio, sì, è vero. Una campagna acquisti importante, e poi bisognerà vedere se avrà la possibilità economica, perché insomma i dati sembrano tutt'altro che positivi, visto anche la difficoltà che ha, insomma, di a livello proprio di situazione debitoria, e poi anche bisognerà valutare appunto questo aspetto, perché insomma credo che a livello di non soltanto, come dice Mancini, a livello di esterni oppure anche di centrocampisti, io credo che abbia bisogno di giocatori in diversi ruoli per tornare alla vera Inter, per quello che vuole Mancini, per come è abituato Mancini, insomma, a guidare le squadre. Quindi credo che in questo, se farà questa campagna acquisti, potrà ritornare nel giro, però dovrà fare un giro di ritorno fantastico. Sì, poi c'è l'aspetto tempo che non è secondario nel caso dell'Inter. Mancini l'aveva detto chiaramente prima di Natale. Le nostre squadre non possono investire, cioè, ma chi è che può investire? Ma non possono nemmeno aspettare fine gennaio, soprattutto nel caso dell'Inter. Gennaio è un mercato già difficile e molto particolare, ma poi il problema è economico. Le nostre società prima devono vendere per poi investire. Ma tutte. L'Inter, cioè, l'Inter diciamo che ha investito nell'allenatore, e possiamo dire, secondo me, insomma, con chiaramente Mancini ha una storia e io ho un'ammirazione personale enorme, però voglio dire, la partenza di Mancini fin qui sarà così, insomma, adesso passare 5 partite di campionato lo si può cominciare a dire, insomma, senza mancare di rispetto a nessuno, perché se non lo dici manchi di rispetto a Mazzarri, insomma, siccome Mazzarri è stato mandato via come fosse un appestato, dopo 5 partite sappiamo benissimo, in maniera assolutamente assolutamente indiscutibile che questo allenatore, quello che c'era prima, avrà avuto le sue colpe, ma non era l'unico colpevole, perché insomma le difficoltà della rosa sono difficoltà significative. Detto questo, è chiaro che Mancini dà una prospettiva per la sua autorevolezza, per la sua forza, anche per ciò che riesce a smuovere ovviamente nella testa dei tifosi, anche per quello che ha vinto in questi anni, dà delle prospettive diverse, però certo il primo vero derby di mercato l'Inter l'ha perso, ecco, questo non ci sono grandi dubbi. Podolski vi convince? Ammesso che arrivi Podolski, poi nella seconda parte della trasmissione parleremo anche con Luca Marchetti di Sky, perché le parole di Wenger sono state abbastanza chiare. Resta comunque una seconda scelta, cioè, Mancini dice non abbiamo mai trattato Cerci, però la verità è che era il numero uno nella sua lista. No, Cerci, Podolski non c'è, cioè, nel Podolski di adesso il Cerci ovviamente nell'ultimo periodo mi sembra che sia la prima scelta, doveva essere Cerci in assoluto, anche per come ne ha bisogno l'Inter. Podolski potrebbe essere un giocatore, come ne sono arrivati tanti, non dico a fine carriera, ma quasi. Podolski è di fatto un comprimario dell'Arsenal, ed è un giocatore ovviamente di buona storia, di qualche guizzo. Devo dire che, adesso non voglio bestemmiare, anche Klose a un certo punto della sua carriera, quando in quei due anni mi pare da 3 gol e 1 gol con il Bayern, prima di essere rigenerato dall'esperienza italiana, sembrava un giocatore a fine carriera. Quindi l'augurio eventualmente è che possa ripetere quel tipo di exploit che ha fatto Klose, che però chiaramente ha avuto una carriera profondamente diversa, visto che stiamo parlando del miglior attaccante della storia nazionale tedesca, quindi parliamo proprio di un monumento assoluto. E detto questo, per me la prima scelta, se vogliamo, era Gabbiadini, che non è mai stato preso in considerazione perché Napoli si è tuffato subito. Sì, perché Gabbiadini andava pagato, era difficile muoverlo, certo. tra prestiti, riscatti. Certo. Quindi insomma, diciamo che se arriva Podolski, secondo me la gerarchia è che abbia gli ricerci Podolski, su questo non ci sono dubbi, primo, secondo e terzo. Per chiudere, Antonio, mi pare di capire, leggendo i giornali di questi giorni, che difficilmente il gap tra Juve e Roma, quel gap che c'è ancora, se c'è una differenza di qualità, verrà colmato. La Juve si sta muovendo per prendere un difensore, un uomo, dietro le punte si parla di Sneijder, comunque per adattare meglio la rosa ad Allegri. Roma che in questo momento non sembra avere le stesse possibilità estive, deve capire chi cedere, pare che tutto si rimandi poi a giugno. È un po' questa la fotografia? Sì, secondo me sì, la Juve per completare l'organico, la Roma per aumentarlo, perché l'acquisto di Turbe non è risultato quello che doveva essere, anche per la somma che l'ha pagato, quindi un giocatore che magari è giovane, doveva ancora ambientarsi, ma non ha reso per quello che si aspettava la società. A parte Gervinho, è ritrovato Ljajic, perché sembrava Ljajic fosse, non dico la terza scelta, ma quasi, virtù anche di alcune frizioni che aveva avuto anche l'anno scorso con lo stesso allenatore, e alcuni giocatori che devono trovare una condizione diversa, e credo fra tutti De Rossi, che insomma l'abbiamo amato per tanti anni, ma il De Rossi dell'ultimo periodo mi sembra un tantino in difficoltà. Quindi la Roma deve sicuramente potenziare l'organico, invece la Juve deve soltanto cercare di colmarlo, di prendere qualcheduno per completarlo. Ti piace l'idea Sneijder? Ma sì, nella Juve, in una squadra già collaudata che gioca anche nel nuovo modulo 4-3-1-2, si può inserire dietro le linee, ma insomma, come sta giocando a volte Vidal oppure Pereira, ma sono, entra in una squadra, si arriva in una squadra già collaudata che non dico giochi a memoria, ma insomma si esalta proprio con giocatori tecnici. Poi in un centrocampo così farebbe la sua figura alla grande, con Tevez, con giocatori insomma che danno del tuo alla palla. Non va in un'altra, una squadra tipo l'Inter, dovrebbe tornare all'Inter, una squadra come il Milan che magari si deve ancora formare. La Juve è già formata da anni. Sì, sarebbe il tassellino che manca, Pier, per dare ad Allegri una rosa più simile a quella che può avere in testa per il gioco. Ma che sì, vuole può fare. Essere, può essere un tassello europeo, secondo me. Cioè, può essere il giocatore che ti risolve qualche partita, perché ha ancora dei colpi di classe eccezionali, ma insomma, dal punto di vista della continuità io non so se Sneijder sinceramente possa essere, a prescindere prioristicamente, un titolare assoluto della Juve. Può diventare una ciliegina, una bellissima ciliegina, molto succulenta, ma insomma non mi sembra che... È anche un giocatore che i palcoscenici europei li conosce. Anche da marzo in poi. Sì, altro profilo anche economico. E certo. Torniamo sempre al discorso iniziale e parliamo della Juventus, che è sicuramente la squadra che dal punto di vista dei soldi, del bilancio, sta meglio. Grazie ad Antonio Di Gennaro, grazie Antonio. Grazie a voi, auguro a tutti. Ciao. Ci sentiamo l'anno prossimo. Pier, invece con te facciamo Piero da Milano e Fabio da Palermo. Piero. Vai. Eccoci. Sì. Ciao, buongiorno a tutti, un saluto a Pardo, sono iscritto al suo fans club ormai da anni. Però tessera numero dire, tessera numero 2. Tessera numero 2. Chi, no, chi è la 1? Volevo... Pier, la 1 sei uno, tu. La 1 è mia moglie. Ah. Lo lascio dire a Pardo, ecco, perfetto. Io non avrei detto quello. No, soltanto una cosa per contestare al grande Pardo, insomma, l'affermazione su Mazzar mi sembra un pochino azzardata. Adesso non facciamo il solito giochino che da asino lo facciamo diventare un eroe, un fenomeno di turno. Mazzar ha delle grandissime colpe perché il mercato è stato avvallato, la squadra è stata costruita da lui insieme ad Ausilio, e quindi dire che il primo responsabile, visto che Ausilio non poteva andare via o comunque forse non era la priorità, a una squadra senza capo né coda, quindi questa è una squadra, Piero, che con il modulo di Mazzarri, quindi costruita per quel modulo, sì, non è andata a fondo, cioè Mazzarri non è stato mandato via perché si trovava come l'anno scorso Allegri con 19 punti nel girone, 22 punti nel girone d'andata, è stato mandato via per questioni ambientali fondamentalmente. Io dico grazie a Dio, e una volta una decisione che non è presa soltanto sull'onda dei risultati, cioè era evidente per chi guardava giocare l'Inter, per chi vedeva Mazzarri e l'atteggiamento anche, io dico, fisico che aveva in panchina, che era un uomo che non poteva più stare lì, al di là delle difficoltà ambientali che c'entrano poco, il pubblico quello diciamo conta zero, ma era evidente che era un uomo che non aveva più nulla da dare a questa squadra, a questa società, quindi io, pur non essendo interista, anzi sono di tutt'altra sponda, credo che una volta che sia stata fatta una scelta non soltanto sull'onda dei risultati che non erano diciamo negativi al 100%, ma era evidente che non c'era margine per andare avanti, e Mancini mi sembra un altro pianeta. Secondo me, io non sono d'accordissimo, nel senso che sono d'accordo sul fatto che Mazzarri ha delle colpe, per carità, non è che sto facendo, sono d'accordo, questo è un paese strano nel quale improvvisamente da Carnesi si è trovato, ovviamente si diventa vittima e viceversa, no? Con degli equilibri molto mutevoli. Sono d'accordo sulle colpe di Mazzarri, sicuramente questa squadra l'ha vallata, l'ha costruita e non l'ha allenata benissimo, su questo non ci sono dubbi. Non credo che la decisione di mandarlo via sia stata una decisione così nobile e coraggiosa, cioè mi è sembrata una decisione in qualche modo figlia anche degli umori di una piazza che giustamente, legittimamente, che il tifoso finché non è violento può fare quello che vuole, può fischiare, ha pienamente il diritto di farlo. Non credeva più in Mazzarri, cioè io credo che l'aspetto ambientale abbia inciso moltissimo. Il pubblico conta se ti piazzano un laser in casa, in faccia, se ti fischiano a prescindere, accidenti se conta. Da Moratti in giù, la stragrande maggioranza dei tifosi dell'Inter oggi è molto più serena di prima, eppure l'Inter in classifica quando c'è Mancini è scesa, non è salita. Poi risalirà, io penso che risalirà perché Mancini è un allenatore bravissimo e quindi darà una prospettiva, però la sostanza dopo 5 giornate è che l'Inter non è risalita, non c'è stata la bacchetta magica, l'effetto entusiasmo ha funzionato moltissimo sui tifosi e sull'ambiente, anche su Moratti che adesso è certamente più entusiasta di prima, ma non sta funzionando a tutti i seri risultati in campo. Io credo che questo sia giusto dirlo, perché se non lo dici, secondo me alla fine ti pieghi a un gioco, a un meccanismo che secondo me non è corretto. Cioè, i numeri dicono che ha fatto il gioco, un punto in una partita, un punto a partita nelle prime cinque. L'Inter di Mazzarri ha fatto delle cose orrende, tipo Inter Cagliari, tipo Fiorentina Inter, però insomma ci sono state anche nella prima parte della stagione, a essere onesti, anche un paio di sensazioni invece positive che l'Inter aveva dato, no? Quindi non è che sia stato tutto così drammatico. Sai, l'Inter di Mancini è arrivata e mi pare che abbia palesato in grosso modo gli stessi limiti, senza fare le medie che sono più negative, senza stare a guardare, non c'è stato l'effetto bacchetta magica, questa è la verità. Poi certamente Mancini, con la sua storia, la sua personalità e il suo carisma, ha questa possibilità, e per Mazzarri non sarà facile ripartire, perché questa sconfitta, questo fallimento è stato evidentemente qualcosa di molto pesante, sì, di molto grave. E prima o poi sentiremo anche la sua verità, perché prima o poi anche, certo, Mazzarri spiegherà. Facciamo in tempo a fare Fabio da Palermo, facciamolo, dai, Fabio da Palermo. Sì, buongiorno a tutti. Eccoci. E auguri per il nuovo anno. Niente, io chiamavo per rammaricarmi comunque dell'andamento dell'Inter, da tifoso dell'Inter di vecchia data. Vado a valutare poi la differenza tra Inter e Milan negli anni, e si vede al 100% in questo periodo, ma anche negli anni passati. Purtroppo noi interisti dobbiamo sempre soffrire perché non vediamo mai, a parte quella parentesi del triplete, che è stata incredibile, però poi fondamentalmente il Milan, quando c'è bisogno di tirar fuori gli attributi, o comunque c'è bisogno di far vedere chi è realmente il Milan, riesce a farlo. Purtroppo l'Inter non ha questo nel DNA. Sì, non sempre è andata così negli ultimi anni, come dimostrano anche tante vicende. È evidente che in questo momento la crisi dell'Inter è più profonda di quella del Milan. Credo, Fabio, questa sia la sintesi giusta. Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque, tornando al discorso di Mazzarri, Mancini, io immagino che Mazzarri sarà in poltrona a farsi delle risate incredibili, perché comunque non ero d'accordo con il cambio, non attribuivo le colpe a Mazzarri, e penso che si possa dire che a questo punto non era tutta colpa di Mazzarri, ma comunque c'è nella società, nei giocatori, nella presidenza, qualche cosa che comunque limita l'andamento positivo di quest'anno, e sono convinto che sì, c'è poca qualità, Pierre, in generale, mi sembra che questo si possa dire. Non c'era prima e non c'è adesso, Pierre. Sia così più profonda di quella del Milan, non sono convinto. Mi rendo conto che oggi il Milan ha qualche punto in più in classifica, ha vinto questa amichevole, ha vinto il derby sul mercato per Cerci, sta dando dei segnali. Tecnicamente mi sembrano due squadre tutte e due abbastanza in difficoltà, tutte e due lontane dalla risoluzione dei loro problemi. Sì, forse il Milan storicamente, il DNA, ha una maggiore capacità di reazione, probabilmente l'ascoltatore ha ragione, l'Inter ha avuto bisogno di un uomo forte, di una generazione dorata, quella del triplete, di giocatori incredibili per arrivare a certi successi, anche se aveva già vinto con Mancini, non va a dimenticare. Quindi, non lo so, io non le vedo così distanti, penso che oggi siamo in qualche modo anche condizionati dal fatto che il Milan ha fatto due belle partite con Roma e Napoli, e adesso questa con Real Madrid, ha vinto il derby sul mercato, insomma ha 3-4 belle notizie positive, ma insomma poi alla fine, se guardiamo le rose, non è che c'è tutta questa differenza. Quindi, no, è la crisi di Milano di cui parliamo dall'inizio di questo, capito, campionato. Pier, sì. Al prossimo anno. Ciao ragazzi, auguri, buon anno a tutti. Ciao, fammi salutare Luca Marchetti, ciao Luca. Ciao a tutti. Ti chiedo 20 secondi. Tempo, saluto anche Pier. È passato. Tu stai andando in scalo? No, a Terni. A Terni, Terni città? Ma chi è andato in scalo? Sì, ne so, è vicino a Terni, no? Non è che... Sì, no, ho capito. Sta a 10 chilometri, mica l'ho detto... No, certo. Torniamo subito. Ciao. Shit. It's Malachia. 100% Malachia. Convocati. Ma fa una lasciare assolutamente arrabbiata per la storia di Cerci era un giocatore insieme a tanti altri che noi seguivamo, ma non abbiamo mai iniziato la trattativa perché sapevamo che c'era il Milan sopra, quindi non siamo mai andati avanti, quindi ci sono altri giocatori, assolutamente non sono arrabbiata. Podolski, uno di questi ti piace, potrebbe arricchire il reparto offensivo dell'Inter? Sì, Podolski è anche un altro giocatore che fa parte di una lista di nomi che insomma cercheremo di fare qualcosa se sarà possibile. Nothing, but he's a player of Arsenal Football Club and I want him to stay, and apart from that, what is to be professional is, as long as you are somewhere, you give your best to justify your wages and your love for the club. Well, that is a joke. Inter Milan is not serious. No, because it's nothing serious. Yeah, they talk, but only talks. E questo era Wenger, 800 24 00 24. Siamo qui fino alle 15, quindi se volete telefonare, chiamate, prenotatevi. La trattativa per Podolski e l'Inter è una barzelletta, sono poco seri, parlano e basta. Questa è la pietra tombale che ha messo forse ieri Wenger sull'ipotesi che il numero 2 della lista, Podolski, dopo aver mancato Cerci, possa arrivare a Milano. Luca Marchetti, è così? Ma non credo che sia una pietra tombale, credo che faccia parte della trattativa. È vero che le squadre italiane in questo momento chiacchierano molto perché hanno poco o molto poco da offrire in cambio di un giocatore, però sta nell'ordine delle idee di voler ricostruire una squadra cercando giocatori, come ha detto lo stesso Mancini in conferenza stampa prima che si partisse dalle vacanze di Natale, che hanno bisogno di riscattarsi. Questo è diventato un po' il mercato italiano, no? Giocatori che evidentemente non sono più protagonisti nelle squadre in cui giocano e che hanno bisogno dell'Italia per rilanciarsi nuovamente, per ritornare magari ad essere quei giocatori che sono stati. Podolski in questo momento non è un titolare dell'Arsenal, a lui questo non va bene, vuole andare via e quindi l'Inter fa leva su questo. Sì, poi c'è anche l'aspetto tempo che non è secondario. Dal 6 gennaio al 1 marzo l'Inter gioca una quindicina di partite che a questo punto sono tutte decisive, a partire da Juventus-Inter del giorno dell'Epifania. Un conto è avere un giocatore adesso, come Mancini aveva detto chiaramente prima di Natale, per poterlo inserire, un conto è averlo il 30 gennaio, certo, sera. Ma è un po' anche quello che dice Wenger, perché anche Wenger ha bisogno di Podolski per la prima del 2015, il 4 gennaio credo giochi l'Arsenal, è un po' a corto di attaccanti, quindi in Inghilterra per esempio scrivono che perlomeno fino al 4 Podolski non si muove, che Wenger ha detto queste cose anche per tenere duro a livello temporale. È per quello che ti dico che secondo me è una situazione di strategie quella che sta facendo Wenger in questo momento. Definire una barzelletta la trattativa dell'Inter, insomma, se io fossi un dirigente interista mi sentirei anche offeso. Sì, anche perché è il secondo schiaffo che hai preso nell'arco di pochi giorni a livello internazionale, prima la questione con l'Atletico Madrid, poi queste parole di Wenger. Evidentemente non è facile andare in giro per l'Europa a fare mercato col borsellino vuoto, che è quello che viene chiesto no, ad ausilio. Dipende anche chi vai a prendere, dipende anche chi vai a cercare, perché poi vai a cercare persone scarse, può andare anche col borsellino vuoto. Se invece vuoi andare a prendere giocatori importanti è obiettivamente più difficile. In tutto questo non ci sono notizie di Toir. Viene dato il rientro a Milano intorno al 20 gennaio, potrebbe essere tardi, considerando quelli che erano i desideri, ripeto, anche temporali, non solo a livello di nomi di Mancini. Sì, ma io credo che Toir con Mancini e con Ausilio abbia già parlato e abbia già detto quale sia il budget, ovvero zero. Non credo che ci sia bisogno di un suo intervento. Lo scorso anno, se ti ricorderai benissimo, ci fu un anticipo del mercato di gennaio e non andò benissimo, perché l'Inter spese alla fine quasi più di 20 milioni di euro, sì, nel mercato di gennaio. Non riuscì nell'intento di andarsi a riprendere la Champions League. Hernanes, che fu il botto di gennaio, di fine mercato, ancora a Milano lo stanno cercando di capire se è un giocatore che può fare la differenza oppure no. Per il momento non l'ha fatta, e quindi chissà, forse è rimasto anche un po' scottato, no? da questo suo primo mercato, perché quello fu il primo mercato di Toir. Festeggiamo quasi un anno di Toir sul mercato, ha speso dei soldi, perché alla fine dei soldi li ha spesi, i risultati non sono arrivati, per lo meno non sono arrivati quelli che avrebbe voluto lui, di ritornare in Champions fondamentalmente. Certo, a proposito di strategie, questa suggestione Ibrahimovic alla Roma, vi faccio sentire questa mattina Jennifer Wegerup, che è la giornalista amica di Ibrahimovic, che per prima ha scritto di questa idea, ipotesi che Ibra possa chiudere la carriera a Roma per cercare lo scudetto. Cosa è successo a Roma non lo so io, ma però bisogna ricordarsi che io non ho scritto che Zlatan sta per venire a Roma, ecco. Io ho scritto che lo consiglio, gli consiglio di andare a Roma, che per me sarebbe la cosa giusta per riaccendersi un po' dopo tre stagioni a Parigi, cambiare squadra, e lui, come hai detto tu, non ha mai giocato al sud, sarebbe una cosa bellissima, però non ha mai scritto che questa succede o che Zlatan, ecco, vuole, ecco, è una cosa mia. E qua arriviamo al dunque. Brava, hai parlato bene, guarda, hai detto la parola esatta, casino. Questo significa che tu conosci molto bene l'Italia, che conosci molto bene Roma, perché è successo un casino. E quindi Luca Marchetti, ci fermiamo qui. Ma ci fermiamo qui sicuramente. Peraltro ha parlato anche Ibrahimovic. Sì, ha detto: io sto bene in Francia, ho ancora un anno di contratto, in Serie A non torno, so che hanno scritto che avrei già firmato, ma non so di cosa stanno parlando. Il Serie A non torno, al di là del rimango in Francia, non lo so. In Serie A non torno, se fosse stato vero non avrebbe chiuso la porta così. Generalmente quando Ibrahimovic o gli assistiti di Raiola hanno un po' di mal di pancia non chiudono la porta in faccia a nessuno. Però è tutto vero quello che ha detto Jennifer, peraltro l'ha scritto lei, quindi chi meglio di lei può saperlo. È stata una sua considerazione ed si è scatenato un pandemonio. Secondo me Ibrahimovic e la Roma non sono compatibili in questo momento. Sarebbe stata una grandissima mossa di mercato, molto costosa. Sì, capace di spostare certamente gli equilibri in Italia, perché certamente avrebbe spostato gli equilibri anche della corsa a scudetto. Esatto. Però a proposito della Nike e della voglia presunta dello sponsor tecnico della Roma di spingere Ibrahimovic verso Pallotta, la Nike versa 4 milioni all'anno alla Roma, cioè è un terzo dello stipendio di Ibrahimovic in questo momento. Evidentemente non è Roma forse la piazza per Ibra, ma siamo un po' ammalati di nostalgia di queste figurine, vale anche per Lavezzi forse. Ma Lavezzi già è molto più facile, innanzitutto perché guadagna enormemente meno, e poi perché vuole andare via, non si è presentato al raduno, era una festa in Uruguay quando la squadra si stava radunando. Lui ha detto che gli piacerebbe tornare a giocare in Serie A, lui è innamorato di Milano perché quando può torna in Italia a Milano dove gravita la sua fidanzata, è rimasto molto legato a Napoli, non ci sono solo le italiane che lo stanno cercando, aveva fatto un appuntamento anche il Barcellona, c'è il Liverpool, quindi è una situazione completamente diversa, cioè Lavezzi è un giocatore sul mercato, Inter e Paris Saint-Germain ne hanno già parlato a Marrakesh. Nessuno ha chiuso la porta in faccia all'altro, sanno, il Paris Saint-Germain sa che l'Inter può essere una soluzione, ma sa che non ci sono soldi subito. L'Inter sa che il Paris Saint-Germain non vuole regalarle il giocatore, quindi se l'affare si vuole fare in qualche modo si fa, i numeri si mettono a posto. Ma sono numeri molto più bassi di Ibra, non ci sono dubbi. Lavezzi, se non sbaglio, guadagna 4 milioni netti all'anno. Sì, siamo tra i 4 e i 4 e mezzo, sì. E questo ti dà anche il senso, ci dà anche il senso di quelle che sono alle volte le notizie che passano in un momento di mercato. Noi facciamo un minuto di raccoglimento pensando ai colleghi di Barcellona che dovranno vivere un anno senza poter scrivere di mercato. Tra l'altro, delle spagnole. Tra l'altro c'era anche Lavezzi che sognava di andare a Barcellona. Sì, sì. Oggi lo scrivono sul sito di Mundo Deportivo, è arrivata la sentenza del TAS. E quindi Lavezzi rimane sul mercato ma non potrà andare a Barcellona. Grazie Luca Marchetti. Grazie a te Giovanni, un abbraccio a tutti e buon anno. Buon anno anche a te, ciao Luca. Perotti lo prenderà, chi capirà che noi non potremo mai darlo a gennaio. Faccia sì o no con la testa, l'ha chiesto il Milan. L'ha chiesto il Milan. Vabbè, non solo il Milan, la Roma. Non solo la Roma. Ci faccia lei gli altri nomi, due li abbiamo fatti noi. No, è un giocatore che interessa a parecchie squadre di alta classifica, però noi, ripeto, lo daremo a quella squadra che capirà che noi a gennaio non potremo darlo via. Ti vedi con una maglia di un'altra squadra italiana o ti vedi più all'estero? Ma ancora non ci penso, perché quando una cosa ti fa stare bene e stai bene comunque da una parte, non ti viene da pensare ad altro. È ovvio, non posso dire e confermare che se starò qui tutta la vita o se andrò via. Io però adesso posso dire al 100% che sto bene qui, come dico tante volte, questa è casa mia, ve lo sto anche mostrando che comunque è casa mia e non mi passa per l'anticamera del cervello ora vedermi con un'altra maglia. No, io dico che a me sembra sempre strano, perché queste dichiarazioni arrivano sempre quando lui non è a Udine. E a me questa cosa un pochino fa sorridere, perché mi sembrano anche un pochino alle volte strumentali, no? Io credo che a prescindere dalle sue dichiarazioni, che in maniera molto rispettosa ma non mi interessano, lui è un giocatore dell'Udinese, finché è all'Udinese fa quello che dico io in campo e quello che dice la società fuori dal campo. Ma... E lui è Muriel, 800240024, Giacomo da Firenze. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo rientrare sull'argomento Mazzarri, o meglio nel confronto tra Mazzarri e Mancini. Io credo che sia veramente poco serio confrontare il cammino di Mazzarri con quello di Mancini. E spiego brevemente perché. Mazzarri ha giocato delle partite imbarazzanti, al di là del risultato, imbarazzanti, è una squadra di morti in campo. Io seguo l'Inter, la guardo ogni domenica, posso assolutamente dirlo. Al di là del risultato, Mancini è andato a Roma a giocarsi la partita fino all'ultimo minuto, con il 4-2 è arrivato all'ultimo minuto. Mazzarri ha perso 4-1 in casa con il Cagliari e ci hanno asfaltato. Cioè, non è serio. Mancini ha anche giocato in casa con la Dnipro, mi pare di ricordare la partita di Europa League, partita che, se fatta dall'Inter di Mazzarri, probabilmente avrebbe provocato valangate di fischi, così a memoria, vado. D'accordo, ma io ricordo che... O il secondo tempo con l'Udinese. Se togliamo il secondo tempo con l'Udinese, stavo arrivando lì, perché il primo con la Lazio, secondo me, è a livello di gioco, perché io guardo il gioco, poi al di là dei risultati, il primo tempo la Lazio è bugiardo nel risultato, a mio modestissimo parere, almeno abbiamo riportato una squadra a giocare come giocano le grandi d'Europa. Nessuna grande d'Europa giocava la difesa a tre. Mazzarri sostenava a gioco a difesa a tre, ha preso il capitano del Liverpool, che peraltro non piace nemmeno a Mancini, sempre giocato in difesa a quattro, mettendolo al centro una difesa a tre, e ha fatto delle bambine clamorose. Sì, ma che Mazzarri abbia delle colpe non c'è dubbio. Quello che noi diciamo, e io continuo a pensare così come per Luigi Pardo, è che la scossa di Mancini in questo momento sia più che altro psicologica e ambientale, cioè tecnicamente sul campo di risultato ancora non c'è stato quel cambio passo. Giacomo, è questo il discorso? Ma non poteva esserci il cambio passo di una squadra come l'Inter, che tecnicamente è inferiore, e con un allenatore nuovo, con una squadra costruita per giocare con un certo modulo, giocando con squadre molto più forti di quelle con cui si è confrontato Mazzarri. Secondo me il cambio di passo c'è stato non solo da un punto di vista psicologico, che mi sembra evidente e qui mi pare siamo tutti d'accordo, ma anche da un punto di vista tattico, perché cioè, noi eravamo lì passivi, aspettare che ci attaccassero. Infatti con le piccole un disastro totale, perché le piccole non t'attaccano. Quindi, cioè, voglio dire, Mancini ha avuto il coraggio di andare a Roma a giocare con una difesa alta, cioè a fare due gol in casa della Roma, ne ha anche presi quattro, cioè alla fine il risultato non è che sia stato il meglio assoluto. Dopodiché dal 6 si ricomincia, ripeto, 15 partite tra il 6 gennaio e il 1 marzo, e lì la stagione dell'Inter sarà chiara, e per questo dico e sostengo che l'elemento tempo per Mancini è fondamentale in questo mercato. Grazie Giacomo. Tutti convocati. This team is my team. Io sono il conduttore della barca e non abbandono la barca. Perché è troppo facile a 37 anni prendere e andare via. I know. I have many difficulties. Yes. Many. Qual è? Ma me work 12 hours, 15 hours a day in the back. Sometimes winners, sometimes loss. Ma my job and my players is not touch. Me touch my players. Questo è Gattuso dannata, poi da ieri invece avventura finita, dalle promesse di inizio autunno, il passo indietro del 26 ottobre, fino alla spugna gettata ieri. Gattuso non è più l'allenatore dell'Offi Creta, perché ha detto sarebbe stato poco dignitoso andare avanti. Saluto Andrea D'Amico, che è procuratore, manager e amico di Rino Gattuso. Sottolineo, sarebbe stato poco dignitoso andare avanti. Ci racconti un po'. La misura era colma, d'altra parte un allenatore senza giocatori, se non si presentano i giocatori, per quanto ce la possa mettere l'allenatore, cosa continua? Farebbe altrimenti una figura poco professionale anche lui. Mi sembra che non ci fossero più le condizioni per continuare, come ha ben spiegato Rino, quello che ha dato ai media. Insomma. Sì, questa volta sono dimissioni irrevocabili. Certo, mi sembra che sia evidente, non è che, cioè, l'altra volta lui di fronte a mille difficoltà aveva detto basta, poi dopo l'affetto dei tifosi, del pubblico, insomma, gli ha fatto cambiare idea, però mi sembra che ora manchino proprio le minime condizioni per proseguire un cammino professionale, quindi per quanto ce la possa aver messa Rino, insomma, così non era possibile continuare. Cosa si porta via da questa avventura? Ma guarda, lui si porta via sempre da ogni avventura qualcosa di positivo, perché è veramente una persona eccezionale, che sa cogliere, portarsi via il meglio anche dalle situazioni più disastrate. Quello che mi ha sempre impressionato anche nella sua carriera da calciatore, da grande campione, mi diceva sempre: io quando ho il campo d'allenamento, casa mia, sta bene la mia famiglia, non ho bisogno di nient'altro. Riesce veramente a focalizzare la sua professione al 100%, non curandosi di tutti magari quegli orpelli che tante volte in una carriera di un giocatore possono fare la differenza, tipo, non so, la città, il clima, la comodità, i servizi, i negozi. Ecco, lui è veramente eccezionale in questo, gli interessa soltanto la sua famiglia e il suo lavoro. tornando indietro, cambiereste qualcosa? Sai che c'è chi sostiene che a Gattuso conveniva stare fermo dopo l'esonero di Palermo, magari ripartire in Italia anche da un settore giovanile, fare più esperienza da allenatore. Rifareste qualcosa di questa scelta di andare in Grecia? Questa è una scelta che ha voluto fare lui, come ha sempre scelto in prima persona durante tutta la sua carriera. E lui sentiva di tornare in pista subito e probabilmente gli era stata mostrata anche una realtà diversa da quella che poi si è trovato ad affrontare. Però adesso non serve niente fare dietrologia, questa è la situazione. Lui comunque aveva già fatto un'esperienza da giocatore allenatore al Sion, poi dopo ha allenato una grande squadra come il Palermo, ha fatto questa esperienza all'estero. Io penso che Rino abbia sempre sentito la necessità di scegliere secondo quello che gli dettava la sua emozione, il suo cuore, la sua testa, e quindi quando uno fa queste scelte consapevole di farle non si deve guardare indietro, e lui non si guarderà certamente indietro, guarderà avanti. Adesso cosa fa? Adesso aspetterà un progetto interessante. Ma gli consigli di restare in Italia, o comunque l'idea di fare esperienza all'estero è qualcosa che serve, fa curriculum, aiuta a costruirsi come allenatore? Guarda, per me quello che conta non è tanto la territorialità dell'esperienza, ma il progetto sportivo e la qualità di questo progetto, perché come spesso dico, un po' anche nella vita di tutti i giorni, nella vita normale sta succedendo così, ma anche nello sport, essendo spesso in aereo, dall'aereo non ci sono confini, ormai nello sport non ci sono più confini, ti può arrivare un'offerta interessante dall'MLS, come dalla Premiership, come dal campionato italiano, ormai è diventato un mondo veramente piccolo, quindi non ci sono più queste differenziazioni nel calcio. Certo, ti rubo ancora 30 secondi perché sta girando su internet in queste ore la notizia che Giovinco interessa al Bologna, che già a gennaio sarebbe pronto a cercare di fare un'operazione di mercato per renderlo il perno del progetto di ricostruzione di una squadra che va in Serie A e poi costruisce un ciclo. È un discorso che esiste, in qualche modo può interessare? Guarda, ogni giorno esce una suggestione diversa, perché quando si fa male Insigne a Napoli viene fuori la prospettiva a Palermo, scusa Napoli, quando si fa male la Fiorentina, qualcuno che Montella lo vede, viene fuori la suggestione Firenze. Al momento non c'è nessuna novità, è ovvio che un giocatore con le sue qualità e con le sue caratteristiche tutte lo vogliono. Quello che è certo è che lui è un giocatore della Juventus e lo sarà fino a giugno, il resto poi lo vedremo. Quindi se ne riparla quest'estate. Grazie Andrea D'Amico. Buona giornata a voi, a presto. Grazie ad Andrea D'Amico, procuratore di Gattuso e di Giovinco. Abbiamo ancora qualche minuto, Mario da Como. Pronto? Eccoci Mario. Buonasera, io sono un milanista di lunga data, per cui è una filosofia di vita per me il Milan, però adesso, cambiando discorso, mi spoglio da questa veste per cui potrei essere di parte e mi metto la veste di un marziano che viene sulla terra e vede le due società. Allora, io non riesco a capire l'Inter, è proprio una situazione da incomprensibile, e anche Mancini, che mi sembrava una persona intelligente. Allora, prima cosa, il problema dell'Inter è un problema di comunicazione. Non si può avere una squadra dove c'è uno o due italiani e poi 6.000 persone, uno che parla il croato, sì, uno che problema parla... che hanno anche altri club che vincono, problema che non ha solo l'Inter. L'Inter aveva i giocatori stranieri anche quando vinceva tutto. Sì, ho capito, ma però questo è fondamentalmente un problema. Diciamo che l'Inter ha un grandissimo settore giovanile e l'ha buttato via. Questa è una cosa gravissima. Sta buttando via un patrimonio italiano e questa è colpa anche, e qui il salto di qualità, dei tifosi dell'Inter che non lasciano spazio a quei poveri giovani, al primo errore che fanno li martellano. E invece il calcio italiano, i talenti noi li abbiamo i migliori talenti del mondo, li avranno solo i brasiliani e gli argentini meglio di noi, ma gli altri non hanno, tedeschi non hanno i talenti che abbiamo noi. Sì, Germania, Germania che sta costruendo già la squadra per i prossimi mondiali, ha detto vicepresidente della federazione recentemente, noi abbiamo già dei sedicenni che fra 10 anni saranno l'ossatura della nazionale. Io non so se l'Italia oggi possa fare questo discorso, Mario. Ecco, sembra ci sia una crisi anche a livello di settore giovanile. Poi, tornando all'Inter, Mancini è forse l'allenatore migliore per provare a valorizzarne uno o due. Però i numeri per una grande squadra sono questi, cioè le grandi squadre difficilmente sono costruite tutte da giocatori del vivaio, c'è qualche eccezione, c'è il Barcellona di Guardiola, però in generale sono pochissimi quelli che riescono a fare il salto poi in prima squadra. Grazie Mario. Mauro da Lucca, Mauro. Sì, pronto. Eccoci. Interista, ma aggiungo a quello che ha detto l'ultimo interista che ha parlato prima di questa, l'ultimo signore, sulla differenza tra Mazzarri e Mancini, che Mazzarri non è che sia stato andato, cioè che non è che Mancini potesse fare granché su una squadra che è stata scelta da Mazzarri, allenata da Mazzarri, schierata da Mazzarri. Penso che non ci sia molto da fare su giocatori non scelti, non allenati, eccetera. E in più aggiungo che state parlando del costo dell'allenatore, eccetera. Ma se fate i conti sulla gente, questo l'ha spiegato bene un paio di giorni fa Mentana, se nessuno va più allo stadio, solo col recupero delle persone. Sì, però che... Mauro, per carità, lei possiamo dire tutto il contrario di tutto, possiamo anche dire ad esempio che, che nelle prime a San Siro lo stadio è rimasto, nelle prime a San Siro lo stadio è rimasto, esatto, che sono praticamente le stesse, non sono 1000 persone a spostare, cioè l'operazione Mancini è un'operazione da 30 milioni di euro in 2 anni, cioè stiamo parlando del doppio dei ricavi dell'Inter in un anno di stadio, quindi non sono 1000 persone in più che possono essere andate a vedere Inter-Lazio a fare dell'affare Mancini dal punto di vista economico una cosa sostenibile. Questi sono i numeri, così, poi si può dire quello mille, che si vuole. Lei dice 1000 a ragion veduta? O no, io dico 1000 perché con la Lazio erano circa 35-36 mila, cioè siamo comunque ampiamente sotto media rispetto all'anno scorso, quando con la Lazio ad esempio erano in 60 mila, cioè comunque l'Inter ha un problema drammatico di disaffezione della gente, ha una campagna abbonamenti non ancora chiusa perché è ancorata su minimi storici, cosa che capita anche al Milan ad esempio quest'anno, e il problema non si risolve con l'arrivo di Mancini, lo ha testimoniato quel tratto di strada che Mancini ha fatto sin qui, poi vedremo, ripeto, da gennaio e febbraio è il momento in cui Mancini dovrà fare insieme all'Inter la differenza e lì valuteremo tutto, valuteremo anche se Toira avrà voglia di finanziare un acquisto per gennaio, possibilmente in fretta, perché questo è quello che gli ha chiesto Mancini. Mi scuso con Aldo da Milano che non riusciamo a prendere, magari ci risentiamo il prossimo anno. Noi ci fermiamo qui, domani abbiamo un approfondimento sulla Coppa d'Asia e la Coppa d'Africa. Abbiamo anche Simone Pianigiani, CT della nostra nazionale di basket. Io ringrazio Daniele Bonamici in redazione, Filippo Aureggi in regia. Auguri a tutti di buon 2015. Ciao, a domani. Mock a chi da mort. Mock a chi da mort. Mock a chi da mort. Bravo.